giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un nuovo incendio scoppia nella notte, questa volta a Prebenikos, frazione di San Dorligo della Valle. Ha preso fuoco un bosco al confine con la Slovenia. Intanto non è finito il lavoro dei vigili del fuoco in Carso. Ieri i droni hanno individuato 50 punti caldi da bonificare per prevenire il riaccendersi di nuovi focolai. La testimonianza di un elicotterista dei vigili del fuoco impegnato in prima linea in quest'estate, dominata dai roghi, dal Carso a Resia, passando per Taipana. In regione sono arrivati a 3 tra i donatori di sangue i casi di positività al virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Le loro donazioni sono state individuate e bloccate, ma loro sono in buona salute. Ottima annata per il turismo triestino. Le presenze al castello di Miramare, uno dei termometri del movimento in città, hanno superato quelle pre-Covid. Soddisfatti anche gli operatori turistici delle Dolomiti friulane in questi giorni. A Cloud tutto esaurito, in alberghi e appartamenti buone prenotazioni fino a fine di agosto. Assunti lo scorso anno scolastico nella quota del cosiddetto organico Covid sono senza stipendio da 3 mesi e la sorte è toccata in regione a un centinaio di lavoratori della scuola, la denuncia della UIL. 77 anni fa l'atomica distrusse Hiroshima e Nagasaki. Nell'anniversario il sit-in delle associazioni pacifiste davanti alla base di Aviano per chiedere il disarmo nucleare quest'anno nel nome di Don Pierluigi Di Piazza. 7:19, buongiorno da Alessandra Zigaina ed Eva Ciuc. Vediamo subito la situazione del meteo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6 del mattino. A Trieste 22,5 gradi, il vento soffia a 44 km orari da est-nord-est e bora con raffiche che hanno raggiunto i 70 km orari. Il mare è mosso con una temperatura di 20 gradi. Gorizia e Udine 23, Pordenone 21,5, Tolmezzo 17,5, Sappada 9,5, Piancavallo 11, Forni di Sopra 13, Tarvisio 12, Monte Zoncolan 10, Monte Lussari 8, Lignano 26, Grado 24 con una temperatura del mare di 25,5 gradi. Le previsioni: oggi avremo tempo stabile con cielo ovunque sereno di mattina, poco nuvoloso nel pomeriggio sulla zona montana, soffierà bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, a tratti sostenuta sul Carso e a Trieste, specie di mattina e poi in serata. Farà piuttosto caldo di pomeriggio, ma asciutto. Con gli incendi purtroppo non è finita. Poco dopo le 2 del mattino, nei pressi di Prebenico, la frazione del comune di San Dorligo della Valle, a ridosso del confine con la Slovenia, ha preso fuoco il bosco nella parte slovena. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco di Trieste, supportati dai colleghi sloveni e dai volontari dell'associazione BREG. Notizia di pochi istanti fa, l'incendio è stato praticamente domato. Da Tolmezzo è arrivato anche un elicottero della protezione civile. L'entità dell'incendio non è ancora nota. Intanto prosegue il lavoro di bonifica delle zone carsiche interessate dall'incendio. Nei giorni scorsi, ieri, sono stati individuati ancora 50 punti caldi da bonificare in modo meticoloso affinché il rogo non si riaccenda. Sorvolando l'area che bruciava sabato tra Duino e Lizard e Medeazza, i droni con le termocamere del corpo forestale hanno individuato ancora 50 punti caldi da bonificare in modo meticoloso e in profondità affinché da ciò che può apparire come un flebile filo di fumo non riparta un focolaio. Tullio Moimas, maresciallo del corpo forestale del Friuli Venezia Giulia. Substrato di materiale in decomposto e di notevole spessore, per cui la combustione prosegue in assenza di ossigeno sotto gli strati di lettiera e poi quando viene a contatto con l'ossigeno si sprigiona il fuoco e il fumo. Su ogni punto caldo i forestali e la protezione civile intervengono togliendo il substrato. Sostanzialmente bisogna togliere il combustibile dal punto caldo, per cui lavorare con profondità nel terreno con un getto d'acqua a notevole pressione. Interventi ancora più complicati sulle pietraie, di cui il Carso è pieno perché la combustione è nascosta e coperta dalle pietre, terreni impervi difficilmente accessibili anche dai mezzi professionali perché le vie di accesso sono delle cararecce spesso ostruite dalla vegetazione, in alcuni casi vengono create appositamente rapidamente per l'intervento. Fondamentale quindi la mappa che segna le vie di intervento, ma anche le infrastrutture, inclusi gli elettrodotti, creata proprio dal Corpo Forestale e condivisa con la Protezione Civile. Il frutto del lavoro di diversi anni di rilevamenti sul campo che il nostro ispettorato ha poi tradotto con diverse colorazioni in modo da indicare quali mezzi possono percorrere queste strade. La bonifica sopra Duino proseguirà anche nei prossimi giorni, dice il commissario del Corpo Forestale Antonio Capovilla. Abbiamo visto che anche intervenendo in giorni successivi con il drone emergono punti che meritano di essere ulteriormente attenzionati e sui quali intervenire. Duino, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. È un lavoro faticoso e impegnativo quello degli uomini in prima linea in quest'estate dominata dai roghi. Sentiamo la testimonianza di un elicotterista dei Vigili del Fuoco. Quei giorni, il momento di relax è quando ritorni alla base e allora lì scarichi la tensione e ti rilassi facendo una bella doccia. Nel momento quando operi e ti trovi davanti a incendi così grandi, non pensi al tempo che passa, non pensi a mangiare e bere, hai solo la priorità che è quella di fare il tuo lavoro, che è spegnere gli incendi. Per prima cosa c'è il fumo, cerchi di non entrarci e c'è comunque poca visibilità. Poi le turbolenze che si formano con il calore del terreno. C'è vento, balli sempre, ma una delle cose più impegnative lassù in cabina, quando fai avanti e indietro a 120 all'ora con 1000 litri d'acqua per domare le fiamme, è cercarsi l'un l'altro. Noi eravamo 5 velivoli e 2 Canadair in uno spazio molto ridotto. E la concentrazione deve essere massima, e il volo è a vista, di conseguenza noi ci guardiamo a vista uno con l'altro e abbiamo a bordo delle radio tutti sulla stessa frequenza, riusciamo a comunicare fra di noi e quindi riusciamo a coordinarci. Luca Basso è l'unico elicotterista friulano dei Vigili del Fuoco a Venezia. Per settimane è stato impegnato nella sua regione su tutto il fronte degli incendi, dal Carso a Resia, passando per Monte Aperta. Momenti di pausa può essere i 20 minuti che fai carburante in aeroporto, allora sì, ecco lì ti rilassi un attimino, bevi un bicchiere di acqua e poi riparti. Pilota mezzi più grossi e pesanti e quindi più difficili da maneggiare durante un incendio, perché sono multiruolo. Un giorno alle 8 era a cercare una persona sul lago di Garda, alle 10 era già nel Goriziano. L'ultimo turno ha ripescato un ragazzo dopo una notte in mare nel delta del Po. C'era lui sull'elicottero che ha trovato vivo l'escursionista disperso da una settimana sul monte Matayur. La folgorazione per il volo a 4 anni quando vede gli elicotteri portare i viveri a Pontebba dopo il terremoto del 76. Oggi lavora a Venezia, da dove copre tutto il nord-est. Quando parte l'equipaggio è formato da 5 persone. In 15 minuti arriva a 300 km orari. Basta uno sguardo alla colonna di fumo, da lontano, per capire a cosa si sta andando incontro. Lo guardi e quando vedi che è grosso, tipo questo, da lontano, sapevi già cosa ti aspettava durante le giornate e che sarebbe stato molto impegnativo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono stati individuati ulteriori 2 casi di positività al West Nile virus tra i donatori di sangue nella nostra regione. I casi salgono quindi a 3, uno dell'area di Pordenone e 2 in quella di Udine. Tutti sono in buona salute e le loro condizioni non destano preoccupazione. Salgono a 3 i casi di contagio umano da virus West Nile in regione, tutti rintracciati grazie ai controlli del Dipartimento Trasfusionale. Oltre a quello emerso venerdì sera a Pordenone, si aggiungono ora 2 casi nell'area udinese. Verranno tutti sottoposti ai prelievi di conferma. Da metà luglio, dopo l'emergere di zanzare positive in alcune trappole, tutti i donatori vengono testati su indicazione del Centro Nazionale Sangue e Ministero della Salute, un livello di attenzione che durerà fino al 30 novembre. Una prassi di routine, essendo il virus endemico d'estate nelle nostre zone. In Friuli Venezia Giulia si donano più di 80.000 unità di sangue ed emoderivati all'anno. Il riscontro di positività era quindi atteso, ma anche prova che la macchina dei controlli è efficace. Gioia Capelli, direttrice sanitaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Il fatto che si trovino delle sacche di sangue positive a West Nile è diciamo una cosa positiva, nel senso che significa che il sistema di sorveglianza e prevenzione funziona perfettamente. I 3 donatori risultano positivi ma stanno bene. Le loro donazioni sono state immediatamente bloccate e saranno seguiti dai servizi trasfusionali per 4 mesi. Vista la vicinanza con il Veneto, non è escluso che nelle prossime ore possano emergere altri casi. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie suggerisce di intensificare le bonifiche in fase larvale. Il trattamento ad ulticida viene consigliato quando ci sono più di due casi umani in un ambiente ristretto, perché ha impatto negativo sull'ambiente e su tutti gli altri insetti utili. Le zanzare infette sono non più dell'1-2%, ma non occorre abbassare la guardia. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo di turismo. Crescono le presenze al Castello di Miramare e superano persino quelle del 2019. Tengono i visitatori anche negli altri musei cittadini e gli albergatori dicono stiamo per tornare alla situazione pre-pandemia. A Trieste dunque si guarda con ottimismo a questa prima estate senza più troppe limitazioni anti-Covid. Dire che siamo tornati ai numeri del 2019, quando Trieste era invasa dai turisti con case vacanze che nascevano a vista d'occhio e hotel da sold out, è sicuramente troppo, ma questa è la prima vera estate di ripresa dopo 2 anni e mezzo di pandemia. Stiamo notando comunque un'alta affluenza di turisti, sono italiani, soprattutto una novità possono essere i francesi e una cosa che abbiamo notato, tanti americani e australiani e anche sudamericani che riteniamo vengano portati dalle crociere. I croceristi, per la prima volta, spiega Paola Vento, vicepresidente delle guide turistiche, sono liberi di visitare la città senza essere chiusi nelle cosiddette bolle anti-Covid. 85% di stanze occupate durante tutta l'estate, maggiore capacità di spesa dei clienti nell'hotel di lusso delle rive. Non abbiamo superato il 2019 come numero di turisti, dice il direttore Riccardo Zanelotti, ma come fatturato sì. Ma perché si sceglie Trieste? Amiamo le città di mare, amiamo in particolare Trieste, l'organizzazione del Friuli Venezia Giulia la troviamo sempre eccellente e ci torniamo sempre con grande piacere. E ancora una volta osserviamo che a trainare ci sono anche i concerti e gli eventi culturali. Siamo venuti per un concerto, il concerto di Joss Stone, che sarà al Castello su di San Giusto. Ad aver persino superato le presenze pre-pandemia, al Castello di Miramare, il suo bel parco a luglio di quest'anno, ha raggiunto 27.300 visitatori, ben 1.300 in più rispetto al 2019. Premiata la comunicazione multilingue, cosa non comune negli altri musei della città. Alla Risiera di San Saba i turisti hanno toccato 4.100 visitatori, a luglio di 3 anni fa erano 5.000, ma piace il museo multimediale con informazioni in italiano, sloveno e inglese. Me l'hanno consigliato come meritevole di una visita degli altri soci del fotoclub e allora sono venuto a vederla. Effettivamente è così, va vista? Sì, perché con tutto quello che si vede qui, pensare che ci sia gente che è ancora capace di negare che cosa sia successo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ottimo bilancio per la stagione turistica in montagna, come testimoniano i diretti interessati anche a Cloud sulle Dolomiti friulane. In vacanza Cloud quest'anno? Sì, sì, ogni anno. Cosa le piace? Le persone, poi le passeggiate. È un posto bellissimo, si sta molto bene. Escursioni, tornei sportivi, musica e tante attività in natura tra le Dolomiti friulane. A Cloud la stagione estiva fa il tutto esaurito, con appartamenti e alberghi al completo. La stagione sembra andare molto bene, il bar procede molto bene e in albergo siamo pieni fino a agosto. Da dove arrivano i turisti? Prevalentemente i turisti sono della zona, però in questo momento abbiamo molte persone dalla Danimarca, evidentemente apprezzano le nostre Dolomiti. È da tanti anni che veniamo qua, un gruppo di amici, e quindi ci troviamo bene e manteniamo questa abitudine. Cosa si fa d'estate a Cloud? Ci si può affidare ad esempio alle gite del CAI, le gite organizzate dal parco, oppure andare in autonomia. Oggi è caldo, andiamo a Barcis, al lago. Un turismo, quello in Valcellina, di chi sceglie mete autentiche e meno blasonate. Abbiamo proposto e organizzato un piano di eventi importante per tutti i gusti. In questo momento storico il turista, più che andare nelle località fashion, decide di venire anche a Cloud, in Valcellina, nel parco delle Dolomiti friulane, nelle Dolomiti dove non nevica, firmato. Da dove arrivate? Buongiorno, Milano. Come mai qui? Il nonno è di Cloud e veniamo qua tutte le estati, stiamo qua un mesetto, io e lui. Cosa apprezza di questo territorio? Ma direi tutto perché è come essere in famiglia. Lei esce di casa e si sente comunque protetto, ovunque vada trova gente cordiale, ci si ferma, si parla e poi ci si conosce tutti. C'è un bellissimo centro estivo organizzato qui dal comune che permette ai bambini di divertirsi e fare degli sport diversi da quelli che si fanno nelle grandi città. Quindi da Roma fino a Cloud? Sì, assolutamente sì, per forza, tutti gli anni, è d'obbligo, è meraviglioso qui. Clout, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono almeno un centinaio i lavoratori della scuola del Friuli Venezia Giulia, docenti e personale ATA, assunti lo scorso anno nella quota dell'organico Covid, privi di stipendio da 3 mesi. A dirlo è Ugo Previti, segretario regionale della UIL Scuola Friuli Venezia Giulia, che chiede si ponga subito rimedio al problema. Lo stipendio di aprile è stato pagato nel mese di luglio, fa sapere, non c'è traccia di quello di maggio e giugno. Il problema è, spiega, che molti di loro non riescono neppure a chiedere la NASPI o la disoccupazione non avendo le buste paga, quindi sono 3 volte beffati. Sono invisibili per la politica ma non per la UIL Scuola, punta il dito il segretario, sottolineando come il problema non venga preso in considerazione in questo periodo di campagna elettorale in cui si sentono le proposte più disparate, ma a nessuno pare interessare il problema del personale Covid della scuola. La Regione ha pubblicato il bando per la progettazione del campus scolastico di Gorizia, nel quale dovrebbero trovare posto 2 istituti superiori. Il valore delle opere supera i 21 milioni. Non è stato solo un calcolo economico quello che ha indotto l'amministrazione goriziana a decidere la costruzione di un nuovo polo scolastico da edificare al posto dell'ex ospedale civile dopo il suo abbattimento, a fronte di circa 4 anni di lavori. Un progetto che vede protagonisti il liceo Slata per l'Istituto Tecnico Galilei, per i cui edifici sono necessari adeguamenti sismici, spiega Lara Carlotte del servizio tecnico EDR di Gorizia. Adeguare dal punto di vista sismico ha un costo solo per l'adeguamento sismico leggermente inferiore, diciamo che potrebbe essere nell'ordine di 1 milione di euro di meno, ma il risultato è un edificio che non è efficiente dal punto di vista energetico, non lo è dal punto di vista dell'illuminazione, non lo è dal punto di vista spaziale. Il progetto a finanziamento regionale per circa 30 milioni di euro e che non esclude anche un supporto europeo coinvolge oltre 1000 studenti. Previste poi le costruzioni di mensa e palestra, oltre ad altri blocchi edilizi futuri adeguati alle nuove esigenze della didattica. Il progetto ha però suscitato perplessità dagli addetti ai lavori, perché il liceo Slata è parte del polo che include il classico Alighieri e lo scientifico Duca degli Abruzzi, con cui condivide organici e amministrazione. Il suo trasferimento necessiterebbe quindi un ripensamento delle strutture. Non solo, come chiarisce Giovanna Petitti, dirigente ISIS Alighieri Gorizia. Desta anche un po' di perplessità, sì è vero, questa convivenza con un istituto tecnico, ma proprio perché stiamo parlando di scuole diverse tra di loro. Ho lanciato questa voglia di condivisione, la necessità della scuola di sedersi a un tavolo comune e magari pensare a qualcosa, una soluzione che è più funzionale e soprattutto a lungo termine. Gorizia, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. 77 anni fa l'atomica distrusse Hiroshima e Nagasaki. Per ricordare questo capitolo drammatico della nostra storia e per chiedere il disarmo nucleare, questa mattina le associazioni pacifiste si sono date appuntamento per un sit-in davanti alla base USAF di Aviano. La manifestazione pacifica è dedicata alla memoria di Don Luigi Di Piazza e al suo pensiero profetico e attuale. Ma sentiamo Don Mario Vatta. Contrariamente a quanto si può pensare, in questo momento è importante testimoniare nella nostra fede nella pace, la certezza che la pace è possibile anche nei momenti come questi, così difficili per l'umanità. Andremo a testimoniare questa mattina questa fede, cercando di dare dei segnali di speranza a tutti coloro che la pensano come noi, a coloro che sono indecisi, a coloro che sono scoraggiati. Ricorderemo certamente Don Pierluigi Di Piazza che ci dava le linee guida per continuare a lottare, a credere nella pace come fatto possibile per l'umanità. Don Mario Vatta, si può ancora credere nella pace in un momento in cui si ha la minaccia nucleare, la guerra in Ucraina, dove i toni sono veramente molto accesi? Dobbiamo credere nella pace, perché mentre parliamo di guerra così in astratto, le bombe continuano a cadere non solo in Ucraina, ma in altre guerre che si portano avanti nei vari paesi, anche sconosciuti, e quindi è necessario che una parte dell'umanità rifiuti la guerra, rifiuti la soluzione dei problemi attraverso la forza, attraverso la violenza delle armi. Questo credo sia importantissimo. Ieri a Marcinelle in Belgio la cerimonia in ricordo delle vittime dell'incendio che 66 anni fa nella miniera di carbone provocò la morte di 262 persone. 136 erano minatori italiani, 7 venivano dal Friuli. I loro nomi sono stati letti in un'atmosfera surreale e silenziosa, accompagnati dal rintocco di una campana. Il silenzio è stato rotto dal coro alpino Montenegro di Cividale, che ha emozionato i presenti cantando Signore delle Cime. Al monumento ai caduti sono state depositate decine di corone d'alloro, tra cui quella del Presidente della Repubblica. Il premio Pulitzer Letteratura Joshua Cohen e il premio Pulitzer Poesia Jericho Brown sono solo due dei nomi dei tanti autori stranieri che faranno tappa alla 23esima edizione di Pordenone Legge per la prima presentazione del nuovo libro. Da ieri è online il programma della rassegna che si terrà tra il 14 e il 18 settembre. Quali sono le aspettative di questa edizione? Sentiamo che cosa ci ha risposto il direttore Gianmario Villani. Ci aspettiamo e speriamo che le aspettative siano soddisfatte di tornare agli assembramenti. Ci aspettiamo di tornare a stare insieme liberamente, a non avere bisogno di super registrazioni o chissà quali dettagliati, insomma, obblighi, e di poter stare insieme nel nome poi del filo rosso che lega tutto quanto il festival, che si vede nell'immagine che abbiamo scelto di presentazione. È un'immagine di rigenerazione, un'immagine che fa pensare che in questo momento nel quale noi temiamo addirittura quasi di essere alla fine di una civiltà, sia soltanto invece un momento di passaggio per ricominciare a credere in tante cose. Le novità e soprattutto i nomi della nuova edizione. Diciamo che abbiamo soltanto 50 anteprime, tra cui due premi Pulitzer e un po' di altre cose. Insomma, diciamo che il sito è lì per testimoniare appunto il numero di autori, la qualità e le novità rispetto agli autori, gli autori nuovi che vengono presentati, i libri nuovi che saranno presentati. Quello che costituisce una novità è che rifacciamo in piazza 20 settembre le strutture che propongono i libri, e poi la novità è che andiamo a fare l'inaugurazione un'anteprima, la settimana prima di Pordenone Legge a Praga, ma di questo spiegheremo meglio più avanti. Sara Marina Abramovic, o meglio il film a lei dedicato, The Artist is Present, per la regia di Matthew Akers, ad inaugurare la rassegna Video Ritratti di Donne Artiste a cura dell'ERPAC Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con l'associazione Casa del Cinema di Trieste. 4 appuntamenti dedicati alle artiste che prendono spunto da Io, Lei, L'Altra, ritratti fotografici di donne artiste, mostra da poco conclusa al Magazzino delle Idee di Trieste al Teatro Miela alle 18. State ascoltando quadri di un'esposizione di Mussorgsky, note che risuoneranno questa sera a Cividale al monastero di Santa Maria in Valle, dove alle 21 si esibirà una pianista di fama mondiale, Anna Fedorova. Con lei alcuni membri della sua famiglia, storici docenti dell'Accademia di Kiev, attualmente sfollati ad Amsterdam. Nata a Kiev, in Ucraina, da genitori musicisti, 33 anni fa Fedorova ha debuttato in pubblico con il suo primo concerto quando aveva appena 6 anni. Il primo successo nazionale è avvenuto l'anno seguente con un'esibizione alla Filarmonica Nazionale dell'Ucraina. Si è esibita in tutto il mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro Colón di Buenos Aires, e ha suonato con alcune tra le più prestigiose orchestre internazionali. L'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, l'ensemble musicale gestito, coordinato e curato da Under 35 e riconosciuto dal Ministero della Cultura, sarà di scena in Basilica d'Aquileia per il cartellone organizzato da Socoba in collaborazione con il Polifonico di Ruda alle 20:45. In programma Haydn e Mozart. Il violino di Noè, un'opera d'arte galleggiante di Livio De Marchi, arriva a Grado. A bordo i virtuosi di Vivaldi terranno un concerto di musica barocca. L'inizio è previsto alle 21. L'opera resterà per una settimana a disposizione del pubblico davanti all'ingresso principale del Lido Git. Al via il festival Vini Gusti in Musica, che proseguirà fino al 3 settembre e che sarà proposto in alcune delle località enologiche più caratteristiche del territorio, omaggiando tra l'altro Duino Aurisina, capitale italiana delle città del vino, per il 2022 e il centenario dalla nascita di Pierpaolo Pasolini a Casarsa della Delizia. Gli eventi faranno tappa anche Palazzolo dello Stella, Aquileia, Butrio, Manzano e Sequals. Stasera alle 20.30 il concerto inaugurale di Pix Ensemble a Duino Aurisina all'agriturismo a Malchina. Alle 7.43 cominciamo la rassegna stampa, cominciamo con il Piccolo, l'edizione di Trieste che apre con le trattative per l'acquisto della cartiera di Duino. Il titolo, cartiera di Duino, le trattative in dirittura finale. La britannica Mondi ad un passo dall'acquisto, no comment di Burgo. Le RSU, si parla di investimenti dopo tanti anni di crisi. La grande fotonotizia invece è per la galleria di Montebello, chiusa per lavori, lavori che hanno subito una proroga di 3 mesi. Il titolo è un virgolettato che riassume il pensiero di chi vive nella zona: noi con la galleria chiusa ci sentiamo dimenticati. A sinistra della parte centrale, il Carso diventi patrimonio dell'UNESCO transfrontaliero. Si tratta di un ordine del giorno accolto dalla giunta regionale sotto i commenti di 2 scrittori, tra cui lo scrittore tedesco Veit Heineken, che da decenni vive a Trieste. Un titolo della parte alta riguarda le prossime elezioni politiche. Nel risico delle candidature le donne rischiano molto di più. Dal Colonnino di cronaca, Meran resta in carcere, nessuna REMS si è resa disponibile. Se non pagate vi brucio le vigne, indagine bis per Sirca. Si tratta del triestino di Malchina, già indagato per avere minacciato di avvelenare succhi di frutta e acque minerali in cambio di un riscatto. Ancora, alloggi extra lusso, park e rotonda in vista per Villa Hausbrandt. Sotto, Muggia, contagi Covid tra addetti e ospiti della casa di riposo. Ancora sotto, non solo caos, Trieste premia 3 fisici eclettici, parliamo del premio Dirac. E ancora per la cultura, tutti i set di Zeno, così cinema e TV scoprirono Svevo. Titolo centrale, fotonotizia diversi per la prima pagina dell'edizione isontina. La fotonotizia ci mostra l'isola della Cona a secco. Titolo, l'aiuto del mare al deserto della Cona. Mentre il titolo di apertura riguarda la nuova sede scolastica di cui abbiamo parlato, nuova sede scolastica per Gorizia. Titolo, Slataper e Galilei all'ex ospedale, bando sul campus. Dopo i test sul virus, individuati altri 2 casi di West Nile tra i donatori, complessivamente i contagi salgono a 3, uno in provincia di Pordenone, 2 a Udine. Questo è il titolo principale del Messaggero Veneto di Pordenone, che dedica la fotonotizia al volontario del CAI morto precipitando per 100 metri con l'auto nel burrone. Altri titoli in prima pagina, esclusi dalle liste 31 docenti precari, non hanno i titoli necessari. Poi il caso dei finanzieri che furono trasferiti da Sacile, 8.000 euro di rimborso a testa, e ancora rifiuti abbandonati, il porta a porta lo deve fare GEA. Poi a Magnago, lavori nella palestra delle medie con 1,5 milioni di fondi regionali, il commento del sindaco: con questo nuovo contributo si riqualifica la Marconi nel suo insieme. Il Messaggero di Udine apre con il titolo sulle banche, sportelli bancari, 1 su 3 chiusi. Negli ultimi anni gli istituti di credito anche in Friuli puntano sempre di più sul digitale. La preoccupazione dei consumatori, clienti ridotti a semplici numeri. In taglio alto il ritorno in aula senza mascherina, ecco le nuove regole anti-Covid a scuola, e altri 2 casi di virus, dunque West Nile, trovati dopo il test sui donatori. E di spalla, sempre sulla prima pagina del Messaggero di Udine, la cronaca con Sauris che rompe l'isolamento, riapre la strada festa dell'Umei, ma le perdite toccano il 30%. Dal Gazzettino, l'edizione del Friuli, auto nel dirupo, muore maestro del CAI, precipita in Alta Valdogna mentre rientra dal raduno sull'alpinismo giovanile. Sotto, virus del Nilo, 3 donatori trovati positivi, ancora siccità, bacini vuoti e nel Cividalese non c'è più acqua. Mais e soia non vengono più innaffiati per salvare i frutteti e gli ortaggi. Lavoro dal casaro al panettiere, i mestieri più richiesti. E ancora crescita economica a fine anno, PIL a più 2,7%, questo il PIL regionale. La fotonotizia è per l'Udinese, titolo Udinese, la carica di Masina e Biol. Infine due premi Pulitzer a Pordenone Legge 2022, no alla tappa su Lussari, scatta la petizione online, il filosofo nel cassonetto per difendere gli ideali che non vanno al macero. Vediamo i titoli diversi sulla prima pagina dell'inserto che il Gazzettino dedica al Friuli, e sostanzialmente si tratta dell'apertura, siccità. I bacini del Meduna non hanno più acqua, da Ferragosto si attinge direttamente dal fiume che però è a secco. Secondo appuntamento della rassegna Carni e Armonia in sala cinema a Paluzza si terrà il concerto dal titolo Quaderni, il diario del tempo, che verrà con il quartetto di interpreti Italian Vibes, inizio alle 20:30. Ultimi appuntamenti con Hot in the City al Castello di San Giusto. Stasera si esibisce Joss Stone, cantautrice britannica, che porterà uno show che verterà sia sui suoi grandi successi che sui nuovi brani della recente Never Forget My Love, l'ultimo album realizzato con la collaborazione di Dave Stewart degli Eurythmics. L'inizio del concerto è alle 21. Seconda tappa per la rassegna Archeologia di Sera nel giardino del Museo di Piazza della Cattedrale a San Giusto a Trieste, in programma alle 20:30 l'incontro con proiezioni dal titolo L'ABC dei geroglifici, breve introduzione alla scrittura, l'intervento musicale, l'Oca del Cairo ed altre intuizioni mozartiane. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 un nuovo episodio di un classico della letteratura friulana del secondo Novecento ad opera di Don Giuseppe Marchetti. A seguire a Tutto Bit, l'appuntamento in diretta dedicato alle nuove tecnologie. Oggi si parlerà della crescente opportunità di collegare a internet oggetti di uso quotidiano come elettrodomestici o sistemi di videosorveglianza, consentendo una loro gestione a distanza. Nella rubrica dedicata a YouTube, un ospite inatteso, il Carnevale di Muggia. I programmi regionali torneranno poi alle 14. Si conclude qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Deva Ciuc. In regia, per la parte tecnica, Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. A tutti voi grazie per averci seguito. Ancora una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.